al di là del bene e del male è un'espressione che non mi piace. Allude a un limite superato, ma non nominato, innominabile. E fa pensare che varcando questo limite ci si possa inoltrare in un territorio nel quale non possano più essere applicate le categorie di bene e di male, che invece, essendo categorie, possono essere applicate a piacere a che sia, e la storia del mondo, la storia dei popoli e dei loro giudizi morali lo sta a dimostrare. Presupposto dell'espressione è già lì il torbidume filosofastrico autocontraddittorio. Guardarsi da chi ne fa uso. Nello spostamento di limiti non nominabili, tuttavia, siamo maestri. Siamo maestri in questi tragici e immondi giorni che sono scorsi e che continuano a scorrere. Cossutta, per esempio, ha dato prova della propria maestria in materia, dicendo che lui e i suoi si sarebbero ritirati dal governo se fossero intervenute truppe italiane di terra. Come se chi va a piedi fosse più criminale di chi va in aeroplano. Come se l'innocenza fosse più innocenza nel caso in cui l'aggressore riesce a fuggire più rapidamente dopo aver colpito. È una sorta di elogio postmoderno di chi tira il sasso e nasconde svelto svelto la mano. Il limite costituito dalla partecipazione alla guerra, oltre il quale Cossutta e i suoi si sarebbero ritirati dal governo, è stato tacitamente spostato con un'acrobazia concettuale che può solo far parte del repertorio storico dei padroni, mai ed in nessun modo del repertorio di coloro che ai padroni vogliono contrapporsi. Il pubblico ministero del processo Marta Russo, cosiddetto dal nome della vittima, perché i nomi li si affibbia anche in base alle poche certezze che si nutrono relativamente a ciò di cui si sta parlando. Così un altro è diventato il processo dei sassi di Tortona, no? Il pubblico ministero chiede 15 anni di carcere più tre per l'implicito possesso illegale di un'arma, perché logica vuole che chi spari sia attrezzato per farlo. Li chiede questi 15 anni a carico di coloro che gli ritiene siano gli assassini. Assassini mediocri, assassini così così, assassini con lo sconto da 3x2 evidentemente, perché per un assassino che si rispetti, qui da noi vigono pene che vanno dai 30 anni all'ergastolo. Questa diminuzione di statuto morale degli assassini la si dovrebbe allo strano fatto che essi avrebbero sì ucciso volontariamente, ma non intenzionalmente, inventando così un limite innominabile che segnerebbe il passaggio dal volontario all'intenzionale, come se fosse un'esperienza comune e assodata l'aver voglia di far qualcosa ma di non averne intenzione. E così per il pubblico ministero di Roma, il fatto che gli assassini abbiano ucciso per uno scellerato e irragionevole gioco, sono parole sue, non sarebbe classificabile fra quei motivi abietti e futili che, anziché un attenuante, nel nostro codice costituiscono un aggravante. È un altro limite innominabile spostato che, al di là del pelo sullo stomaco che conseguentemente occorrerà per giungere ad una sentenza di condanna, rende manifesta tutta la leggendarietà della certezza del diritto e tutta la fasullaggine di ciò che amano raccontare i governanti ai fini della beata prostrazione dei governati. Sono i responsabili di un disegno criminale, al di là del bene e del male, ispirato alla filosofia di Nietzsche, ha detto il pubblico ministero nella sua requisitoria, non accorgendosi di ciò che esattamente diceva. Se lui avesse davvero pensato che quanto fatto dagli imputati fosse al di là del bene e del male, non avrebbe potuto chiedere condanna alcuna, neppure quella dei 15 anni più 3, palesemente orfana di certezza interiore. E se lui avesse riflettuto sulle fortune del filosofo tedesco alla borsa degli intellettuali, si sarebbe ben guardato dal citarlo. Da un po' di tempo in qua Infatti Nietzsche ha potuto usufruire di un bagno purificatore postumo, in grazia del quale tutte le sue nefandezze, fra le quali Al di là del bene e del male, che venne pubblicato nel 1886, sono state ascritte più o meno alla sorella o al cognato. Riabilitazioni fatte con troppa carità e scarsissima memoria, come quella toccata al nazista Heidegger, che la dicono lunga sullo stato di confusionale servilismo che contraddistingue i cosiddetti uomini di cultura. Così di Nietzsche si tende a dimenticare quanto sia servito non casualmente in forme diverse sia a Mussolini che a Hitler. Così il processo di Roma, nella discussione sui giornali, ha mutato repentinamente imputati. In secondo piano sono finiti i giovani assistenti universitari e in primo piano è balzato lui, Friedrich Wilhelm Nietzsche, Federico Guglielmo, insomma, uno che a 12 anni era già tanto superuomo da infilare la mano in una stufa, cavarne un carbone ardente al solo scopo di conferire consistenza storica al famoso gesto di Muzio Scevola di fronte ai compagni di collegio. Assolto in 4 e 4-8 lui da una benevolenza degna di miglior causa, andava da sé che la medesima sorte toccasse automaticamente agli imputati. Un pubblico ministero cui mancasse un movente, beh, avrebbe dovuto guardarsene. Fino a prova contraria, infatti, ogni imputato non può essere privato della propria autonomia di persona e dunque delle responsabilità delle proprie azioni. Beh, così come Nietzsche, pur andandosene a cercare parecchie e nonostante gli appelli alla vita spericolata, non può essere considerato semplicemente un Vasco Rossi prima della penicillina.